Italia in controluce. Narrare la cronaca italiana, i problemi, le eccellenze delle città, raccontare le piccole e le grandi storie di Nera, i casi di giudiziaria rimasti irrisolti. Benvenuti da Daniele Biacchesi e questo è il filo conduttore di Italia in controluce. Siamo a Giugliano in Campania, 7 km da Napoli. È finita la stagione delle emergenze ambientali sui rifiuti? Pare proprio di no, stando al racconto di Raffaella Calanda. Buongiorno, io ho già chiamato prima per denunciare un allarme rogo da Giugliano. Ora svettano tra i piani dei palazzi, ora si allungano all'orizzonte, al di là delle campagne. Qualche volta si spengono da soli, spesso devono intervenire i pompieri. I roghi di rifiuti ai bordi dell'asse mediano intorno al comune di Giugliano non sono mai spariti. Questa emergenza, al contrario di quella della monnezza normale, non è finita per legge e questa è ancora la terra dei fuochi, come confermano i video recenti inviati dai cittadini all'omonimo sito diventato il diario di una battaglia civile. Non è cambiato nulla, gli incendi continuano, sono copertoni, versano le cassette di pesci putrefatti, computer, medicinali scaduti. Noi al momento in cui vogliamo prendere le targhe, a qualcuno si avvicina e dice fate i fatti vostri. Gli stessi fotogrammi Tilde Adamo ce li aveva fatti vedere già nel 2007, accompagnandoci al di là delle sbarre dell'area industriale di Giugliano. Arrivano lì i camion, gli danno la mazzetta e vanno a svessare. Coinvolgono le persone che abitano nei campi nomadi per far bruciare loro i rifiuti? Sì, entrano, svessano e li fanno appiccare il fuoco. Zona Asi di Giugliano. 7 chilometri più in là c'è Napoli. Qui, come nel resto della regione, l'emergenza rifiuti è finita per legge il 31 dicembre, ma fa capolino ogni volta che ogni protesta frequente degli operatori non pagati inceppa l'ingranaggio, perché si naviga a vista, denuncia Paolo Giacomelli, assessore partenopeo all'igiene, secondo cui tra elezioni e bufera sulla protezione civile ci sono stati 4 mesi di vuoto invece della graduale transizione tra il commissario straordinario e gli enti locali. È un miracolo che tutto sia andato liscio. È successo che sono state costituite queste società provinciali e hanno preso in gestione la parte, come dire, di trattamento e smaltimento dei rifiuti. In Campania e nel Lazio vanno in gran parte in discarica e un pochettino vengono trattati in questi impianti CDR. Negli anni i comuni sono usciti da questi consorzi e si sono organizzati la raccolta per conto loro. Hanno circa 900 persone che dovrebbero essere impiegate nella raccolta dei rifiuti e invece i comuni hanno fatto autonomamente le gare e non usano questi lavoratori. Quindi il grande problema adesso in Campania è chi paga e dove vanno i lavoratori di questi consorzi. Per questo ogni tanto il delicato meccanismo va in tilt sotto le spinte di alti numeri e alti costi difficili da sostenere e all'interruzione dei pagamenti spesso corrisponde quella della raccolta dei rifiuti e subito i cumuli rinnovano lo spettro delle emergenze. Quando è successo a Napoli città i dipendenti sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. Alla voce monnezza, insomma, sotto al Vesuvio gli equilibri normali sono ancora ben lontani, mentre anche a causa di tutto questo, molto concrete sono le bollette della Tarsu che arrivano in tutta la Campania. 120-130, allora, 80% è aumentato questa volta, capito? Rosa è una bidella in pensione. Quando ha dovuto pagare l'immondizia ha rinviato la sostituzione del termosifone, eppure lei è rigorosa nella raccolta differenziata come quasi tutta la provincia di Benevento. Nell'Interland napoletano invece la tassa è schizzata in su del 65% per un meccanismo che lo stesso assessore Giacomelli non esita a chiamare spreco. Il costo integrale dei rifiuti deve essere spalmato sulla Tarsu, no? A Napoli, proprio per assumere tutti i lavoratori del consorzio di Napoli, dovuto aumentare tra le tante inefficienze anche la Tarsu del 65%. Se tutti questi lavoratori dei consorzi che non lavorano, che potrebbero essere assunti dalle società provinciali, cadranno sul costo della tassa, naturalmente si arriva a dei livelli insopportabili. Erano assunzioni che non servivano, no? E quindi abbiamo questo numero abnorme di addetti. tutti dovranno essere assunti quelli dei consorzi, come in Napoli che non si smentisce mai, prima che arrivassi io aveva già assunto tutti e 350 quelli del consorzio. Il danno è la beffa, i costi per i cittadini crescono ma non la qualità dei servizi, e se non ci fossero ancora i militari davanti alle discariche, a cominciare da quella di Chiaiano, è la previsione spassionata dell'assessore, saremmo in piena emergenza. Contro sversamenti di rifiuti non trattati, la gente, infatti, come hanno fatto capire i comitati anche ad una delegazione europea, è pronta a tornare sulle barricate. Raffaella Calandra, GR24, Sole 24 Ore. Italia in controluce. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai. Aldo Fegatelli Colonna, giornalista, scrittore, ha lavorato e continua a lavorare sulle indagini sulla morte di Luigi Tenco, cantautore morto nel 1967. Cosa è stato scoperto? Cosa c'è ancora da scoprire? È stato scoperto, a mio avviso, quello che noi pensavamo, e lo abbiamo dedotto dalle risultanze dell'autopsia voluta da me, da Buttazzi e da Pomati un paio di anni fa. Tenco, nonostante appunto le risultanze che vanno in una certa direzione, Tenco è stato giustiziato. Non è morto nella stanza in cui è stato rinvenuto, e la mano che ha sparato è stata quella di una persona di bassa statura o comunque al momento dello sparo in una posizione fisicamente inferiore. Perché io ho usato il termine giustiziato? Perché sicuramente quando avviene il fatto, Tenco sta questionando con questa persona o con queste persone e non sa ancora che cosa accadrà. Quindi la morte, a nostro avviso, è immediata. Lo sparo parte da sinistra verso destra, da posizione appunto fisicamente inferiore, il foro d'ingresso è in una certa posizione, ed esce dall'altra parte in posizione diagonale e più alta, praticamente, che è una posizione abbastanza inusuale per un suicidio. D'altronde ci sono dei rilievi importanti sui polsini di Tenco, dopo un Photoshop non sono stati rilevati segni di microspruzzatura, che è sempre presente nel caso di una mano suicida, diciamo così. Nella stanza non è presente sangue se non nel tappeto dove lui è stato, diciamo così, ricoverato, perché lui muore in un'altra stanza, perché la polizia quando fa i rilievi dice che il corpo è stato rinvenuto su un pavimento di parquet, mentre la stanza 219 del Savoy era di graniglia, quindi sicuramente è stato portato da una parte all'altra. D'altronde molti ricorderanno una telefonata pervenuta dall'Hotel Londres di Sanremo, quando tutta la combriccola della RCA era a cena al Nostromo, per dire: accorrete, Tenco sta male. È una cosa quantomeno dubbia. Nelle foto che noi abbiamo in mano, ufficiali, abbiamo rilevato la presenza di una pistola Beretta 22 sotto il cavallo, sotto le gambe di Tenco. Di questa pistola non c'è stata più traccia, praticamente. Chiaramente questa cosa è stata certificata da un perito del Tribunale di Roma, eccetera. È abbastanza chiaro, voglio dire, che una persona si è introdotta o comunque ha questionato con lui per il motivo relativo alla combine che lui voleva denunciare e che aveva già denunciato per telefono la notte stessa, parlando con Valeria. Disse: io ho fatto nomi e cognomi e li ho scritti su un foglio, a te scriverò una lettera simile nei prossimi minuti. Non è stato rinvenuto nulla. Queste sono le risultanze di quello che noi abbiamo scoperto. Che cosa c'è da scoprire ancora? Beh, esattamente chi è stato a sparare, anche se sarà molto difficile scoprirlo. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. www.radio24.it, potete anche iscrivervi a Radio 24 Italia in Controluce, il nostro gruppo su Facebook, oppure inviarci mail controluce@radio24.it. risentite la mia voce alle 6:30 su Radio 24 di domani.